Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella che state per ascoltare è la nostra 233esima trasmissione. Oggi in studio c'è Stefania, che ha preparato un intervento sulla premiazione e la consegna degli Oscar del cinema avvenuta poco tempo fa. Poi c'è Emanuela, che oggi terrà a bada e sotto controllo tutta la strumentazione stando al mixer. Infatti mi sento un po' strana perché è la prima volta che partecipo da quest'altra parte dei microfoni. E poi ci sono io, Caterina, che a dire il vero non so ancora bene cosa farò di preciso questa sera, perché con noi sarebbe dovuta esserci un ospite questa sera, con la quale avremmo parlato di un argomento molto interessante, che però ai noi, anzi direi soprattutto ahimè, ha avuto un contrattempo all'ultimo momento e praticamente pochissimo tempo fa ci ha comunicato che con grande dispiacere doveva declinare il nostro invito. Visto che però ci ha promesso che avrebbe fatto di tutto per trovare altre date da dedicarci, abbiamo deciso che non vi diremo e non vi anticiperemo nulla, per cui non vi diremo di chi si trattava e non diremo nulla neanche su cosa avremmo dovuto discutere insieme, però sarà una meravigliosa sorpresa la prossima volta. È nostra intenzione infatti mettere sicuramente in programmazione una nuova trasmissione con lei. Chiarito questo aspetto e chiedendo ancora scusa a chi ci ascolta se magari questa trasmissione sarà ancora più caotica del solito, e quindi andiamo avanti ascoltando subito un brano musicale. Però prima ricordiamo il numero del nostro cellulare che abbiamo a disposizione per i vostri SMS, che è 339 853 6270, sul quale potete scriverci tutte le vostre impressioni, le vostre domande, le vostre richieste, o quantomeno mandarci un saluto, che a noi fa sempre piacere. Ora ascoltiamo il brano WhatsApp delle Four No Blonde. To get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Ciao, sono Stefania. Oggi vi parliamo di Kathryn Bigelow, la prima donna a ricevere l'Oscar alla regia. Proprio così, nella storia del più noto premio cinematografico, seppur commerciale, non era mai avvenuto che una donna vincesse l'Oscar. Del resto la regia è considerata un lavoro maschile e si contano veramente poche registe. Di solito questo premio è accompagnato a quello di miglior film. Così è stato anche questa volta e Kathryn si porta a casa entrambe le statuette per il film The Hurt Locker, più altri 4 premi minori. A consegnarlo, non a caso, Barbara Streisand, che ha annunciato la sua vittoria affermando «è arrivato il momento», sottolineando così l'importanza del riconoscimento. Pensate che dal 1929, primo anno in cui vengono assegnati gli Oscar, ad oggi solo altre 3 registe sono state candidate all'Oscar, senza mai vincerlo. La nostra Lena Vermeuler per Pasqualino 7 bellezze, Jane Campion per Lezioni di piano e Sofia Coppola per Lost in Translation. Kathryn Bigelow nasce il 27 novembre del 1951 in California. Molto interessata all'arte, si iscrive al San Francisco Art Institute e vince una borsa di studio che la porta a trasferirsi a New York. Nel 79 debutta alla regia con un cortometraggio, Set Up. Nel frattempo ha vinto un'altra borsa di studio alla Columbia University, dove segue un corso tenuto da Miloš Forman, regista del magnifico Qualcuno volò sul nido del cuculo. Il 1982 segna il suo esordio, dirige un giovane Willem Dafoe in The Loveless. Nell'83 insegna cinema per la durata di un semestre all'Istituto per le Arti della California. Nello stesso anno entra come sceneggiatrice alla casa di produzione Universal. Dopo aver rifiutato diverse proposte di film perfetti per essere diretti da una donna, gira nel 1987 il suo secondo lungometraggio, Il buio si avvicina, che entra a far parte della collezione del Museo d'Arte Moderna di New York. Leva la pausa. Finalmente, nel 1990, riesce a portare avanti il progetto che desiderava da tempo, girare un poliziesco con una donna in divisa come protagonista. Ciò è reso possibile da Oliver Stone, unico produttore a non chiedere che il protagonista fosse un uomo. Viene così realizzato Blue Steel, bersaglio mortale, interpretato da Jamie Lee Curtis. Una giovane poliziotta, ai suoi primi incarichi, si trova ad affrontare il fatto che proprio il suo amante è autore di alcuni delitti. L'impossibilità di provare la colpevolezza dell'uomo e la forte attrazione tra i due sono gli assi portanti della trama e danno l'idea dell'ambiguità che regna nel film. L'intreccio, la suspense sono perfetti, ma diciamo non è certo un capolavoro, è un film di genere. Quello che lo rende particolare è proprio che la protagonista è una donna. Un incontro decisivo è quello con James Cameron. I due si sposano e Cameron produce Point Break, che la pone definitivamente tra i cineasti più stimati in ambito internazionale. Point Break, interpretato da Keanu Reeves e Patrick Swayze, è, di fatto, il più grande successo di pubblico della regista. Due agenti dell'FBI sono sulle tracce di un gruppo specializzato in rapine. Si sospetta siano surfisti. Il più giovane degli agenti si infiltra per smascherarli. Inevitabilmente rimane affascinato dalla loro filosofia di vita. Il film, riuscitissimo, è ricco di inseguimenti, di suspense, ma anche d'approfondimento sui protagonisti. Memorabili le scene in mare, le rapine adrenaliniche e la sequenza finale, con protagonista indiscusso l'oceano. A mio parere, uno dei film migliori sul mondo del surf e sicuramente un ottimo film d'azione. Nel 1995 è la volta di Strange Days, presentato alla Mostra di Venezia, film che coniuga atmosfere da fantascienza con una velata critica alla società. L'attore principale è Ralph Fiennes, spacciatore della nuova droga, lo Squid, una specie di videoregistratore cerebrale che consente di vivere ogni tipo di esperienza e sensazione registrata da altri su un apposito dischetto. Il protagonista, dalla vita sregolata, cerca di smascherare l'assassinio di un carismatico rapper e contemporaneamente di riconquistare la sua ex. Catherine passa un momento difficile durante la lavorazione. Divorzia da James Cameron, che continua però a produrre il film, e perde sua madre, alla quale è dedicata la pellicola. Nel 96 è premiata con il premio Federico Fellini alla Mostra Internazionale Rimini Cinema. 4 anni dopo realizza una delle sue pellicole più raffinate, l'europizzante Il mistero dell'acqua con Sean Penn. La consacrazione definitiva arriva quindi con The Hurt Locker, film che si può definire contro la guerra, ma che non arriva ad essere antimilitarista e di rottura come illustri predecessori quali M.A.S.H. di Altman o Full Metal Jacket di Kubrick. È asciutto, descrive in modo piatto gli eventi, volutamente senza esprimere giudizi. Si evince il suo essere contro la guerra tutto dalle citazioni iniziali. La furia della battaglia provoca una dipendenza fortissima e spesso letale, perché anche la guerra è una droga. E ripetuto ancora, la guerra è una droga. La trama del film è semplice, quasi banale. Iraq, seguiamo una squadra d'artificieri e sminatori, unità con elevatissimo tasso di mortalità. Uno di loro muore in un tentativo di disinnesco. A ricoprire il suo posto arriva William, militare che ha reso innocue un numero incredibile di bombe. È subito evidente il contrasto con il caposquadra, che è cauto, ligio al dovere e alle regole, e soprattutto pensa alla sicurezza del gruppo. William invece è un solitario, individualista, ed ha come obiettivo la sfida con le bombe, a costo di mettere a repentaglio la sua vita e quella degli altri. William ci viene presentato anche con il suo lato umano, la voglia di aiutare la popolazione del luogo, sempre e comunque senza seguire il regolamento. Mentre gli altri militari fremono per tornare a casa, William è totalmente disinteressato alla cosa. Lo vediamo alla fine del film in compagnia della moglie e del figlio, incapace di riadattarsi alla vita di tutti i giorni. Indimenticabile la scena del supermercato, in cui smarrito deve scegliere un pacco di cereali. Supermercato vuoto. È solo davanti a uno scaffale lunghissimo, zeppo solo di cereali. Non ci sono parole, non ci sono giudizi. Basta lo sguardo ironico a far capire l'assurdità. Nella scena successiva lo vediamo nuovamente in Iraq, appunto. La guerra è una droga. Il film ha un montaggio molto veloce, la telecamera è a spalla nelle sequenze più concitate ed è molto curata la scena iniziale dell'esplosione della bomba. Come sempre, la Bigelow dà il meglio di sé nelle scene adrenaliniche. Avremmo però preferito che il primo Oscar alla regia per una donna fosse dato per un film più coraggioso. L'assenza di un giudizio netto di condanna è una grave mancanza. Del resto, anche dai ringraziamenti al momento di ritirare i premi, si capisce la posizione certamente a noi sgradita della regista. Dedica infatti la vittoria a tutti gli uomini e le donne che portano un uniforme in ogni parte del mondo e ancora agli uomini e alle donne che rischiano la loro vita in Afghanistan e in Iraq. Dice: spero che possano tornare a casa sani e salvi. Il desiderio di presentarvi un ritratto di questa autrice nasce anche dal fatto che molti giornali hanno posto l'accento sulle doti estetiche della Bigelow, sottolineando che sia prossima alla sessantina ma ancora bella. Purtroppo è la solita storia, le donne devono essere sempre belle e giovani e si sorvola sulle loro doti lavorative. A peggiorare il tutto, i riferimenti all'ex marito James Cameron non sono stati risparmiati. Cosa logica, se vogliamo, visto che Cameron concorreva anche lui per l'Oscar con il film Avatar. Cosa meno logica però è il fatto che molti giornali abbiano titolato «Vince l'ex signora Cameron», quasi come se ex signora Cameron fosse un nome. L'accento quindi è stato posto sul fatto che batte l'ex marito, considerate che sono stati sposati solo 2 anni, sul grande sconfitto Avatar e non sulle doti tecniche della regista. Per chiudere, la fase che Kathleen dedica alle donne. Spero di essere la prima donna di una lunga serie a vincere l'Oscar. Mi piacerebbe pensare di essere solo una regista indipendentemente dal sesso, ma sono contenta di essere fonte di ispirazione. Vi consigliamo dunque la visione sicuramente di Point Break e di Strange Days. Sconsigliamo l'ultimo film di Alt Laker, anche se la scena finale vale tutto il film. Allora Manuela, io direi a questo punto di mettere un brano musicale. Io ascolterei Alain Morissette con il brano Things. Eccoci qua, interrompiamo per qualche minuto. Sì, certo. Beh, dopo che interrompiamo per qualche minuto, certo, ci sta, deve essere letterale la cosa. la nostra scaletta soltanto per ricordarvi che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda a partire dalle ore 17 tutti i martedì su Radio Onda Rossa sugli 87,9 MHz. Potete ascoltarci collegandovi al nostro sito www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta, oppure sul sito della radio che, ricordiamo, è www.ondarossa.info. Avete diversi modi per entrare in contatto con noi. Potete telefonare al numero della radio che è 06 49 17 50 fino alla fine della nostra trasmissione, oppure potete mandarci un SMS al nuovo numero, e sottolineo nuovo, che è 339 853 6270. Ve lo ripeto in modo che possiate memorizzarlo: 339 853 6270. Bene, tenete conto che il nostro cellulare rimarrà attivo fino alla fine della nostra trasmissione. Per continuare ad elencare i modi con i quali entrare in contatto con noi del CLR, vi ricordiamo anche che potete scriverci una mail al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it, o telefonarci il giovedì sera al Centro Femminista Separatista presso la Casa Internazionale delle Donne, componendo il numero 06 68 64 201. Come sempre, il mezzo più immediato che avete per farci sentire che ci siete è quello dei trillini, che gradiamo sempre. Basta fare il numero di Radio Onda Rossa, che, ripeto, è 06 49 17 50, lasciar squillare una volta e riagganciare. Non costa nulla, ma noi regala sicuramente la vostra compagnia. Quindi fatevi sentire, noi siamo qui. E ora che cosa facciamo? Metti in sottofondo quello che stai mettendo, un pochettino. Sì. Mentre io mi preparo per la lettura della... Io penso che questo lo puoi lasciare anche come sottofondo, sai, mi fa piacere leggere, certo, questa favola. Certo. Allora, adesso vi leggo una favoletta molto carina, è tratta del libro di Maria G. Di Rienzo, Favole per adultere, e si intitola Le nozze di Medusa. Credo che scapperò di casa, annunciò Brigitta in tono sommesso, guardando il proprio ginocchio sporgere bianchissimo dalla sfilacciatura dei pantaloni. Cinzia, che stava seduta accanto a lei sulla panchina traballante, la osservò divertita da sopra la spalla. «Ma se vivi sola, da chi vuoi scappare?» Brigitta batté lentamente le palpebre. «La casa mi tiene prigioniera. Sono vecchia. Non va bene. Tua madre mi manda le frittelle e il vedovo del terzo piano», strabuzzò gli occhi al disgustoso pensiero, «mi chiede di andare a messa con lui, non va bene, non va bene». Un gruppetto di bambini che giocava a pallone eruppe improvvisamente in alti strilli. Qualcuno aveva rifiutato di restituire la preziosa sfera di cuoio finita per errore su un balcone. Il cortile di cemento sembrò diventare ancora più grigio e più cupo. «E basta!» urlò un uomaccione sudato apparendo in canottiera alla terrazza incriminata. «No, non ve lo ridò. Intanto quasi mi rompevate un vetro e poi fate un mucchio di chiasso!» Il suo sguardo incontrò quello di Brigitta, che divenne d'un tratto duro e brillante. «E non avete nessun rispetto neanche per la nonna, laggiù! Potevate ammazzarla con una pallonata!» «Non sono una nonna!» urlò Brigitta alzandosi di scatto. «Nonno, sarai tu!» Trotterellò decisamente verso il centro del cortile dove i bambini erano in attesa, ammutoliti e brontolanti. Cinzia le si appostò alle calcagna. vestivano allo stesso modo. Le vere amiche lo fanno, aveva detto Cinzia, con blue jeans rotti al medesimo ginocchio e un'ampia camicia dagli improbabili ricami indiani. 14 anni stavano in una taglia 44, come 84 anni stavano a una taglia 40. L'altezza era pressappoco la stessa, anche se Brigitta sosteneva di stare accorciandosi un po' per l'età. Piantate fianco a fianco, con i pugni stretti e i menti sporgenti, parevano staglio e olio in un tentativo di riscossa. «Tira subito giù quella palla, ladro!» intimò Brigitta, e i ragazzi ripresero la parola d'ordine. «Ladro, ladro, ladro!» «Uè, vecchia stronza, tornatene in manicomio! E voi altri, anche tu, cicciona, voi, andate a giocare da un'altra parte, capito? O io chiamo i carabinieri!» La porta finestra del balcone sbatté così forte che Brigitta si irrigidì, paventando uno spicinio di vetri. Dopo qualche istante, lanciato da una seconda finestra, il pallone venne a cadere ai piedi di Cinzia, che ancora fremeva per l'epiteto rivoltante. Ma non era più qualcosa di cui ci si potesse servire per una partita. Infatti, uno squarcio osceno lo apriva in due. Il proprietario, un moreto dagli occhi lucidi, lo raccolse con cautela e si diresse verso casa. Gli altri lo seguirono a passo lento, sfilando sotto il balcone come stessero attraversando le forche caudine. «Credi che si possa riparare?» si bisbigliavano null'altro. Poi il cortile restò in silenzio e, eccettuata la presenza di Cinzia e Brigitta, del tutto vuoto. «Che schifo!» commentò la giovane. «E pensare che se il cuore mi guarisce, magari fra 10 anni voglio sposarmi!» E dopo altri 10 lui caccia via i ragazzi come se il mondo fosse suo, come il gigante egoista. Brigitta alzò le spalle e tornò verso la panchina, mentre Cinzia ancora ciaclava. «Ho deciso, dovrei sposare un maschio solo se avesse meno di 8 anni, dopo diventano cretini!» «La gente cresce», sospirò Brigitta, «ma se lo sposi a quell'età forse la cosa potrebbe funzionare». Sedettero di nuovo vicine. La ragazzina si affaticava con pochissimo sforzo, bastava veramente niente, e cominciarono pigremente a pescare cioccolatini da un sacchetto e a scartarli. «Però non è un problema, vero?» disse Cinzia con la bocca piena, proseguendo il discorso. «Io lo so che non guarisco. Mi uccideranno le mestruazioni, probabilmente. Ho sentito la dottoressa che lo diceva alla mamma, e di lei mi fido. Anche lei porta uno dei nomi della dea, come noi due. E mia madre ti manda le frittelle perché sei gentile con la sua povera bambina malata», aggiunse con rabbia genuina. «Atara, Diana, Leucippe, Shingmo», cantellinò Brigitta assorta. «Come si chiama la dottoressa?» Il vento pareva portava via le sue parole e le attorcigliava in spire i lunghi capelli languinosi. Per un attimo a Cinzia sembrò che a parlarle fosse la bianca testa di Medusa. «Ma si chiama Anna qualche cosa, adesso non mi ricordo. Ne ho visti tantissimi di medici, sai? Così», concluse, «non mi sposerò mai». La donna anziana guardò altrove e sorrise, mentre le dita ossute modellavano animaletti nella stagnola dei cioccolatini. «Stasera sorge la luna nuova», disse la ragazza. «Dovremmo soffiarle contro un po' di cenere e gridarle: ti ho visto prima io! Porta bene, sai? Mi pare che sia un'usanza degli abitanti della Costa d'Oro». «Cos'è quello?» disse la giovane. «Oh, un gattino!» La figuretta di stagnola passò sulle pallide palme di Cinzia. «Sei proprio brava, Brigi!» D'impulso abbracciò l'amica e la tenne stretta stretta a sé. «Oh, Brigi, ti voglio tanto bene! Senti, sposami tu!» Brigitta Latra le accarezzò la testa, lasciando che le dita scivolassero a lungo fra i grossi riccioli castani. «Cara Cinzia», replicò dolcemente dopo un tossicchiamento di circostanza, «confesso che desideravo proportedo da lungo tempo, almeno da quando hai cominciato a parlare di matrimonio giovedì scorso. Quando ero forte e piena di speranza, secoli fa, lo proposi a Jane, la mia amica, e ottenni solo una sbrodolata storia delle donne sul patriarcato, l'istituzione della famiglia. Beh, così lasciai perdere. E poi cominciai a cantare, perché il mondo è pieno di musica, e a me pareva che ne avessi avuto abbastanza di tempo per poter cantare tutto quanto. Fu allora che mi portarono in quell'ospedale per togliermi la musica dalla testa. Sollevò il viso della ragazza e ne baciò le labbra che già sapevano del blu stantio di un sangue impoverito. Non perderò un'altra occasione, sarò felicissima di celebrare il rito. Stasera, stasera stessa, se vuoi. È meglio, convenne Cinzia. E poi, diventando raggiante, devo vestirmi di bianco? Di bianco, sospirò Brigitta grattandosi le orecchie che lasciavano spuntare qualche pelo bigio. Come la luna nuova, bianco, sì, bianco, sicuro. Anch'io mi vestirò di bianco. Ho giusto una camicia da notte adatta allo scopo. Anch'io ne ho una. Però ho un'applicazione colorata, un albero, un melo che porta i frutti, sai, sul davanti, stupendo. L'anziana ingurgitò l'ennesimo cioccolatino, l'albero della vita, molto bello, simbolico quasi. E la dea benedirà la nostra unione? Oh, ci puoi giurare, ragazza mia. E nel cortile dell'altro condominio abbiamo anche la fontana davanti a cui sposarci. A dire il vero, sarebbe meglio una sorgiva in un boschetto, per esempio, però credo che anche la fontana vada bene. Cinzia batté le suole contro le gambe contorte della panchina, eccitatissima. I fiori! Dovremmo avere anche i fiori, una coroncina di fiori, e poi il bouquet. Ah, sì! Brigitta saettò occhiate rapaci alle aiuole asfittiche che circondavano il cortile. Là possiamo prendere i rametti di pesco, un paio, non voglio far soffrire l'alberello. Poi ci sono un mucchio di viole del pensiero, mi piacerebbero i glicini, ma la tizia che li ha piantati, la signora Maruzzi, sta sempre dietro la tendina a spiare, ci vedrebbe sicuramente. Ah, un po' di rose le rubiamo a quel bastardo che ti ha chiamato cicciona. Sì, disse Cinzia, e a te ti ha chiamato vecchia stronza, le rammentò aggrottando la fronte, ma subito spianò il cipiglio illuminata da una nuova idea. Che parole diciamo? Oltre a io prendo eccetera eccetera, intendo, ci vuole qualcosa. Io canto in tuo onore, se vuoi, so a memoria tutto Laica Virgin di Madonna. Brigitta si volse di scatto. Quello proprio no, per favore, è roba che non sopporto, piuttosto l'inno alla gioia, te l'ho fatto ascoltare, no? Senti come verrebbe. E cominciò a cantare spensieratamente, mentre Cinzia rideva al suono, per lei esilarante, della lingua tedesca. Brigitta aveva una voce sottile, ma ben intonata e armoniosa in modo suggestivo. Oh, accidenti, mi sono quasi fatta la pipì addosso dal ridere, singultò Cinzia quando l'ultimo gorgheggio si spense nell'aria abbrunita. Guarda, sono... Si interruppe e fissò allucinata la macchia che si era allargata in mezzo alle sue cosce e aveva financo inumidito il vecchio legno della panchina. Brigi, balbettò tremando, mi sono venute. Adesso muoio. Oh, muoio, no, non voglio, non voglio. Non c'è niente di male a morire, replicò la donna, prendendone una mano. Lo sai, lo fa un sacco di gente, ogni giorno. Stai tranquilla, è solo come cadere dal decimillesimo piano in assenza di gravità. Sarà così, Cinzia, molto buffo e tranquillo. Non importa quanto puoi aver sofferto prima, sarà molto tranquillo. Sì, e tu come fai a saperlo? Anzimò Cinzia, non sei mica morta tu. No, ma tu chiudi gli occhi se devi morire, disse severamente Brigitta. E se non ce la fai, andiamo in farmacia a comprare gli assorbenti. Ce li ho già a casa, borbottò la ragazza ad occhi chiusi. Restarono in silenzio. Cinzia respirava velocemente, in modo affannoso. Poi il ritmo divenne più lieve e regolare e, dopo qualche minuto, era quasi impercettibile all'orecchio di Brigitta. Strinse piano una spalla alla ragazza e disse: «Sei morta?» Cinzia aprì un occhio, cauta, e aprì l'altro e girò la testa per guardare meglio l'amica. Mi pare di no. Allora andiamo a casa, piano piano, perché dobbiamo prepararci, sorrise furba e diede di gomito a Cinzia. Mi fa male la pancia, si lamentò quest'ultima. Ma avrai mangiato qualcosa che non ti piaceva, tipo il radicchio. Si avvicinarono a braccetto verso l'alveare pietrificato in cui baluginavano luci gialle e arancioni. Le lampadine sembravano frutti luminosi, osservò Cinzia. Dopo le nozze, però, non voglio più essere prigioniera dei muri e delle persone, ribadì Brigitta lamentosamente. Possiamo andare dove vuoi, le rispose la ragazza. La luna non ebbe più modo di vederle sedute su quella panchina a cronometrare la corsa del tempo. Passarono la prima notte di nozze al centro sociale occupato di via Gonfalonieri. Vi si trattennero anche la sera successiva in occasione della festa afro. Avrebbero potuto stabilirvisi, ma il mondo è veramente pieno di musica e loro due, nelle reciproche differenze e nel rispetto dei gusti personali, erano intenzionate a cantarla tutta. Bene, ringraziamo a Caterina che ci ha letto questa meravigliosa favola. Delicatissima, io l'ho trovata delicatissima. È molto delicata e tenera, sì. E, direi che è il momento di ascoltare un brano musicale che si intitola Il Party ed è di Giusy Ferreri, tratto dall'album Gaetana. A me questa cantante piace molto. Non ce ne eravamo accorte, no? Dove esiste solo l'amore, si ama, si fa l'amore, you. Eccoci qui. Eccoci. Appunto, allora io direi che si può, che possiamo ringraziare di averci ascoltato, anche se diciamo siamo anche un pochettino dispiaciute, perché noi insomma abbiamo comprato un telefonino nuovo, una scheda nuova, manco un messaggino ci avete mandato. Io già, così in extremis ve lo ridò: 339 853 6270. Almeno che fateci sentire che ci siete, anche soltanto ciao, quello che volete, ma insomma dateci soddisfazione, su, mandateci un messaggino, vi prego. Io ve lo ridico un'altra volta, prima di salutarvi, per darvi appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Il numero è 339 853 6270. Ciao da Caterina. Ciao. Ciao da Manuela, e scusatemi ma era la prima sera con il mixer. Devi mandare la sigla finale e poi ce ne andiamo tutti a casa. La sigla finale e buonanotte. Buonanotte, no, un po' presto. Ciao. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.